Terzo anello, ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Introduzione di Franco Cordelli. Nella primavera del 1874, Tolstoi cominciò a pubblicare Anna Karenina, ma se ne pentì immediatamente. Ritirò il romanzo dalla tipografia e solo un anno dopo esso vide la luce, in rivista. Pure, di nuovo e di colpo, le pubblicazioni cessarono nel 1877, con l'ultimo capitolo della settima parte, vale a dire con il suicidio di Anna. Il romanzo non era finito. Passò un altro anno perché fosse pubblicato in volume, come noi lo conosciamo. Tolstoj aggiunse l'ottava parte, quella che Dostoevskij non gli perdonava. Perché Dostoevskij rifiutava l'ottava parte di Anna Karenina? Ne aveva condiviso fino in fondo l'arte e la morale. Non tollerava l'idea di Levin, ovvero di Tolstoj, che la decisione di Vronsky, redimersi lottando per la liberazione degli slavi dal dominio turco, fosse in ultima istanza condannata. Meno di Anna, perché la sua anima non era nobile come l'anima della donna che aveva amato, anche Vronsky aveva sofferto, era sulla strada dell'espiazione. Ma al male non si può reagire con la violenza. Questa era la morale conclusiva. E questa era la morale che Dostoevskij rifiutava. La liberazione del popolo slavo, per lui, non ammetteva perplessità. Stranamente, su tutto il resto, Tolstoj e Dostoevskij procedevano di comune accordo. Anche Dostoevskij, che a differenza di Tolstoj si assumeva la contraddizione, prima nei Fratelli Karamazov, poi nel discorso per il centenario della morte di Pushkin, aveva ribadito che non si può costruire la propria felicità sull'infelicità altrui. Qual era stata la grandezza di Pushkin? Era stata questa. Tatiana amava Onegin, ma non abbandonò il marito. Anna sperimenta, per così dire, la strada opposta. Tolstoj prepara con sapienza il terreno. Non perde occasione per rivendicare, per rivelare l'aridità, chiamiamola così, di suo marito Alexei e per giustificare dunque il tradimento. Come può un cuore così grande vivere accanto a un uomo simile, congelato nelle sue formule morali e nell'ubbidienza alla volontà del mondo, cioè al dettato sociale? Una delle estreme sottigliezze di Anna Karenina è che Anna è un grande personaggio, tutt'altro che un Emma Bovary. In lei non vi è nulla di mediocre, o almeno così sembra. La sua sensibilità è assoluta, immediata sempre la sua capacità di reazione, inoltrandosi nell'esperienza umana, nell'esperienza di vivere. Tuttavia, quest'anima accogliente, proprio a causa della sua capacità di accogliere, non è incorrotta. A proposito di ciò, che ne pensa l'autore, basterà tra i tanti un particolare. Accogliamo nella sua qualità di donna di mondo, aggiornata, avida di conoscenze. L'accogliamo nell'atto di leggere un libro di Hippolyte Taine, uno scrittore francese, un discendente degli illuministi, un pensatore alla moda. C'è in Anna qualcosa che fatalmente la porterà alla rovina. Come non capire le sue ragioni accanto ad un marito come Alexei, ma come non accorgersi che le ragioni della rovina erano accucciate nel fondo della sua debolezza? Del resto, la debolezza di Anna era la debolezza di Vronsky, dell'uomo di cui si era innamorata. Quando Vronsky entra in scena, a tutto suo vantaggio viene implicitamente messo a confronto con Oblonsky, il primo personaggio maschile che abbiamo incontrato. Quello Blonsky che con noncuranza si macchia e continua a macchiarsi del peccato di cui si macchierà Anna. Ma subito dopo entrerà in scena Levin, di fronte al quale Vronsky appare quasi una fluttuante nullità. Già nella prima parte, per ora prima della lettura possiamo dire, tutto è implicito o evidente. Tutto è predeterminato. Tutta la gerarchia è disegnata con precisione. Il disegno morale di un'evidenza assoluta e chiarissimo il senso, quindi la forza, del romanzo. tutte le famiglie felici sono simili fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Tutto era in scompiglio in casa Oblonsky. La moglie aveva saputo che il marito intratteneva una relazione con la governante francese che era stata in casa loro e aveva dichiarato al marito di non poter più vivere nella stessa casa con lui. Questa situazione durava già da più di 2 giorni ed era avvertita in modo doloroso dai coniugi e da tutti i membri della famiglia, nonché dai domestici. Tutti i membri della famiglia e i domestici sentivano che la loro convivenza non aveva più senso e che persone riunite dal caso in una locanda qualsiasi erano più legate fra loro che non essi, familiari e domestici degli Oblonsky. La moglie non usciva dalle sue stanze. Il marito non era in casa da più di 2 giorni. I bambini correvano abbandonati per la casa. La governante inglese aveva litigato con l'economa e scritto un biglietto ad un'amica pregandola di cercarle un nuovo posto. Il cuoco se n'era andato già il giorno prima durante il pranzo. La sguattera e il cocchiere si erano licenziati. Il terzo giorno dopo la lite, il principe Stepan Arkadich Oblonsky, Stiva, come era chiamato in società, si svegliò alla solita ora, e cioè alle 8 del mattino. Non però nella camera dal letto della moglie, ma nel suo studio, sul divano marocchino. Rigirò il corpo pieno e ben curato sulle molle del divano, come se desiderasse addormentarsi di nuovo, a lungo. Abbracciò forte il cuscino e vi schiacciò sopra la guancia. Ma ad un tratto balzò su, si sedette sul divano e aprì gli occhi. Notata una striscia di luce che trapelava da un lato della tenda di panno, buttò giù gaiamente i piedi dal divano. Con essi cercò le pantofole ricamate in marocchino dorato, che gli aveva fatto la moglie, dono per il suo ultimo compleanno, e, secondo una vecchia abitudine che durava da 9 anni, allungò il braccio verso il punto dove, nella camera da letto, era appesa la sua vestaglia. E qui, a un tratto, si ricordò come e perché non aveva dormito nella camera della moglie, ma nello studio. Il sorriso scomparve dalla sua faccia ed egli corrugò la fronte. «Ah!» mugolò, ricordando tutto ciò che era successo. E alla sua immaginazione si presentarono di nuovo tutti i particolari della lite con la moglie. La situazione senza via d'uscita e, più tormentosa di tutto, la propria colpa. «Ah sì, lei non perdonerà, non può perdonare. E la cosa più terribile è che la colpa di tutto sono io. Sono la colpa, ma non sono il colpevole. In questo consiste tutto il dramma.» «Oh!» ripeté ancora con disperazione, ricordando le impressioni per lui più penose di quella lite. Più spiacevole di tutto era stato il primo momento, quando, di ritorno dal teatro, allegro e contento, con un'enorme pera per la moglie in mano, non aveva trovato la moglie nel salotto. Con suo stupore non l'aveva trovata nemmeno nello studio e finalmente l'aveva vista in camera da letto con in mano lo sciagurato bigliettino che aveva fatto scoprire ogni cosa. Lei, quella Dolly, eternamente affaccendata e preoccupata e non troppo acuta come egli la considerava, sedeva immobile con il biglietto in mano e lo guardava con un'espressione di orrore, di disperazione e d'ira. «E questo cos'è? Cos'è?» domandava mostrando il biglietto. A questo ricordo, come spesso accade, Stepan Arkadich era tormentato non tanto dal fatto in sé, quanto dal modo in cui aveva risposto alle parole della moglie. In quel momento gli era successo ciò che succede alle persone che inaspettatamente vengono colte sul fatto in qualcosa di vergognoso. Non aveva saputo preparare il proprio viso di fronte alla situazione in cui era venuto a trovarsi. Invece di offendersi, negare, giustificarsi, chiedere perdono o persino rimanere indifferente, tutto sarebbe stato meglio di ciò che aveva fatto. Il suo viso, del tutto involontariamente, s'era messo ad un tratto a sorridere. D'un sorriso buono e perciò stupido. Quello stupido sorriso non poteva ora perdonarselo. Vedendo quel sorriso, Dolly aveva sussultato come per un dolore fisico. Con l'irascibilità che le era propria, era esplosa in un diluvio di parole cattive ed era scappata via dalla camera. Da quel momento non aveva più voluto vedere il marito. «Colpa di tutto è stato quello stupido sorriso», pensava Stepan Arkadich. «Ma che fare, che fare?» si chiedeva con disperazione e non trovava risposta. Thank you. Stepan Arkadyevich era un uomo sincero con se stesso. Non poteva ingannarsi e credere d'essere pentito del proprio comportamento. Non poteva adesso pentirsi del fatto di non essere più innamorato, lui, bell'uomo, 34enne, incline all'amore, di sua moglie, madre di 5 bambini vivi e di 2 morti, e di un anno solo più giovane di lui. Era pentito solamente di non averglielo saputo nascondere, ma sentiva tutto il peso della propria situazione e compativa la moglie, i figli e se stesso. Forse avrebbe saputo nascondere meglio i propri peccati alla moglie se si fosse aspettato che quella notizia le avrebbe fatto tanto effetto. Non si era mai posto con chiarezza questo problema, ma aveva la confusa impressione che la moglie intuisse da tempo che lui non le era fedele e chiudesse un occhio. Gli sembrava persino che lei, consunta, invecchiata, non più bella e in nulla interessante, donna semplice, soltanto buona madre di famiglia, per un senso di giustizia avrebbe dovuto essere indulgente. Era risultato proprio il contrario. «Poi si vedrà», si disse Stepan Arkadyevich, e, alzatosi, indossò la vestaglia grigia con la fodera di seta turchina. Chiuse i lacci con un nodo, si avvicinò alla finestra, sollevò la tenda e suonò forte. Al suono del campanello entrò subito il suo vecchio amico, il maggiordomo Matvei, portando l'abito, le scarpe e un telegramma. Subito dopo Matvei entrò anche il barbiere con l'occorrente per la barba. Aperto il telegramma lo lesse, correggendo con l'intuito le parole come sempre storpiate, e la sua faccia si fece raggiante. «Matvei, mia sorella Anna Arkadievna sarà qui domani!» «Grazie a Dio!» disse Matvei, con questa risposta mostrando che anche lui, come il suo padrone, capiva il significato di quell'arrivo, e cioè che Anna Arkadievna, sorella diletta di Stepan Arkadyevich, poteva favorire la riconciliazione fra marito e moglie. «Sola o con il consorte?» domandò Matvei. Stepan Arkadyevich non poteva parlare, perché il barbiere era alle prese con il labbro superiore e si limitò ad alzare un dito. Nello specchio Matvei annuì con la testa. «Sola. Devo far preparare di sopra? Riferisci a Daria Alexandrovna. Dove ti ordinerà lei? Ecco, prendi il telegramma. Comunicami poi che cosa ti ha detto». «Volete fare una prova?» capì Matvei, ma disse soltanto «Sì, signore». Stepan Arkadyevich era già lavato e pettinato e si accingeva a vestirsi quando Matvei ritornò nella stanza con il telegramma in mano, camminando ad agio con le scarpe che scricchiolavano. Il barbiere non c'era più. «Daria Alexandrovna ha ordinato di riferire che lei parte. Che faccia quel che gli pare lui, cioè voi», disse ridendo soltanto con gli occhi, e messe le mani nelle tasche e piegata la testa da una parte si mise a fissare il padrone. Stepan Arkadyevich tacque. Poi sul suo bel volto apparve un sorriso buono e un po' mogio. «Matvei», disse scuotendo il capo. «Fa niente, signore, tutto si accomoderà. Si accomoderà. Ma proprio così. Credi? Ma chi c'è di là?» domandò Stepan Arkadyevich, sentendo dietro la porta il fruscio d'un abito femminile. «Sono io», disse una voce ferma e gradevole di donna, e di dietro la porta si affacciò il viso severo e butterato di Matriona Filimonovna, la gnagna. «Che c'è, Matriona?» domandò Stepan Arkadyevich, andandole incontro sulla porta. «Andate da lei, signore, e dichiaratevi ancora colpevole. Forse Dio farà la grazia. Lei soffre molto e fa pena guardarla. E poi tutto in casa va a catafascio. Bisogna avere pietà dei bambini, signore. Riconoscetevi colpevole. Che farci, chi pecca? Ma non mi riceverà. E voi fate quel che dovete. Dio è misericordioso. Pregate Iddio, signore, pregate Iddio». Va bene, vai», disse Stepan Arkadyevich, arrossendo tutta un tratto. «Su, intanto fammi vestire», si rivolse poi a Matvei e si tolse risolutamente la vestaglia. Matvei già reggeva la camicia pronta, tenuta per il collo, soffiandone via qualcosa di invisibile, e con evidente piacere ne avvolse il corpo ben curato del padrone. Thank you. Daria Alexandrovna, in camicetta e con le trecce di capelli un tempo folti e belli e adesso ormai radi, appuntate sulla nuca, con il viso smunto e magro e i grandi occhi spaventati che spiccavano nella magrezza del viso, stava in mezzo agli oggetti sparpagliati nella stanza davanti ad una scifoniera aperta dalla quale andava scegliendo qualcosa. Sentendo i passi del marito, si fermò guardando la porta e sforzandosi invano di dare al proprio viso un'espressione severa e sprezzante. Sentiva d'aver paura di lui e d'aver paura dell'imminente incontro. Vedendo il marito, affondò le mani in un cassetto della chiffonier, come per cercarvi qualcosa, e si voltò a guardarlo solamente quando lui le fu vicinissimo. Ma il suo viso, al quale voleva conferire un'espressione severa e risoluta, esprimeva lo smarrimento e la sofferenza. «Dolly!» disse egli con voce sommessa e timida. Infossò la testa nelle spalle e voleva avere un aspetto avvilito e docile, ma irradiava lo stesso freschezza e salute. Con uno sguardo rapido, lei sbirciò dalla testa ai piedi la sua persona, raggiante di freschezza e di salute. «Ah sì, lui è felice e contento, mentre io, e anche questa sua odiosa bontà per la quale tutti lo amano e lo lodano tanto, io la odio, questa sua bontà», pensò. La sua bocca si contrasse, il muscolo della guancia si mise a tremare dalla parte destra del volto pallido e nervoso. «Di che avete bisogno?» disse con voce affrettata, non sua, che veniva dal petto. «Dolly», ripeté egli con il tremito nella voce, «oggi arriva Anna. Beh, che mi importa, io non posso riceverla. Eppure, Dolly, si deve. Andatevene, andatevene, andatevene», gridò lei senza guardarlo, come se questo grido fosse suscitato da un dolore fisico. «Dolly, per amor di Dio, sai...» Ma non poté continuare, un singhiozzo gli si era fermato in gola. Lei chiuse di scatto la chiffonier e gli gettò un'occhiata. «Dolly, che cosa posso dire? Una cosa sola. Perdonami, perdonami. Forse che 9 anni di vita in comune non possono ripagare un minuto, un minuto. Andatevene, andate via di qui. Dolly», proferì egli ormai già singhiozzando, «per amor di Dio, pensa ai bambini, loro non hanno colpa. Il colpevole sono io. Castigami. Ordinami di espiare la mia colpa. In ciò che posso sono disposto a tutto. Sono colpevole, non vi sono parole per dire quanto sono colpevole. Ma Dolly, perdonami. Mi fate ribrezzo, ripugnanza», gridò lei infervorandosi sempre più. «Le vostre lacrime sono acqua fresca. Voi non mi avete mai amato. In voi non c'è un cuore né nobiltà. Per me siete ripugnante, disgustoso. Siete un estraneo per me, sì, completamente un estraneo». Proferì con dolore e con rabbia la parola estraneo, per lei orrenda. Egli la guardò, e la rabbia che si manifestava sul suo viso lo atterrì e lo meravigliò. Non capiva che la sua pietà per lei la esasperava. Essa vedeva in lui la compassione, ma non l'amore. «No, mi odia, non mi perdonerà», pensò lui. «È terribile, è terribile». Nello stesso momento, nell'altra stanza, probabilmente perché era caduto, strillò un bambino. Daria Alexandrovna si mise in ascolto e il suo viso ad un tratto si addolcì. Fu palese che le occorse qualche secondo per ritornare in sé, come se non sapesse dov'era e che cosa fare. Poi, alzandosi in fretta, si mosse verso la porta. «Eppure a mio figlio vuol bene», pensò egli, notando il mutamento sul viso di lei al grido del bambino. «A mio figlio... come può dunque odiare me?» «Dolly, una parola ancora!» proferì seguendola. «Se mi seguite chiamerò gente, i bambini! Che tutti sappiano che siete un mascalzone! Oggi io parto e voi vivete pure qui con la vostra amante!» E uscì sbattendo la porta.